Una buonasera a Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, in compagnia di Max Macchia e di 451 Frammenti Sonori. Anche questa sera siamo tornati, certo, in, come dire, posizione monouso, visto che c'è soltanto il sottoscritto. Domenica prossima probabilmente tornerà anche il mio compagno di avventure e sventure, perché no, Eliseo Scarpa. Nel frattempo, insomma, vi toccherà assorbirmi, come dire, per chi ha voglia e per chi così vuole viaggiare dentro strane frequenze, appunto, dovrà assorbirmi o comunque dovrà in un certo qual modo sopportarmi. Poi sapete, insomma, qua si prende spesso la mano e quindi i suoni sperimentali diventano anche urticanti. Questa sera proveremo a fare un viaggio, uso sempre il plurale che non è maiestatis, ma è una sorta, insomma, di disegno generale di 451 frammenti sonori che insomma si cerca di disegnarsi durante l'arco dell'anno con sperimentazioni di vario tipo. Abbiamo già toccate due che trattavano in un certo qual modo la contemporanea, con Suoni dei Generi la scorsa settimana, e la prima trasmissione che era appunto musiche contemporanee e quindi una sorta di viaggio dentro le nuove contemporaneità musicali, classiche contemporanee, se vogliamo ancora considerarle tali, appunto, come suffisso. E Max Macchia questa sera vi presenterà quel particolare percorso seguito da alcuni outsider negli anni 70, 70 irrecuperabili, 70 recuperabili, un decennio, insomma, piuttosto contraddittorio sotto molti aspetti, e tuttora, insomma, rimane un pugno nello stomaco anche a livello musicale, non soltanto per quello che generò in termini di cultura, di controcultura, soprattutto di movimenti politici e ideologici, ma anche, insomma, rispetto a quello che era un aspetto poi sicuramente collegato con gli altri, che è quello musicale, di fatto, insomma, strutturale, probabilmente a livello linguistico, quindi una lingua che ad un linguaggio che attraversava buona parte, insomma, di quel decennio. Questa sera sono outsider che disegnavano negli anni 70 una sorta di viaggio parallelo a molto mainstream, che comunque anche all'epoca, insomma, piuttosto dura, insomma, e ci fu, ovvero un viaggio dentro un prog così malmesso, volutamente malmesso, oppure un prog molto più sperimentale o qualcosa che era più legato a una continuazione degli anni 60, quelli più liberi, più freak, più comunardi. E in effetti, partendo proprio con una formazione di culto, sì, forse lo ha anche diventata nel corso del tempo, forse per un personaggio che ci passò da questa comune, la comune è quella degli Iowa statunitensi, quindi faremo anche un giro, come dire, soprattutto in Europa, dove, insomma, di fatto il verbo prog aveva un fondamento anche piuttosto consistente. Poi spiegheremo anche nel corso della trasmissione perché, ma quelle musiche che comunque si mossero nella fine degli anni 60 dentro le psichedelie o comunque parallele ad esse e sfruttando, insomma, anche un discorso comunitario piuttosto importante per quanto riguarda anche la creatività, quindi il costruire insieme percorsi linguistici, nuovi percorsi linguistici. Sicuramente gli Stati Uniti d'America, se non hanno avuto un prog, sicuramente hanno avuto quello che alcuni critici hanno considerato in quegli anni un art rock, e dentro forse una strana vibrazione che era quella del post psichedelico, comunque della voglia ancora di sperimentare una vita in comune, seppur siamo negli anni 70, quindi la generazione, insomma, che aveva fatto breccia soprattutto e culminata in Woodstock, chiaramente con festival molto più particolari, molto minori, meno conosciuti, del celeberrimo festival newyorkese, perlomeno insomma nella zona di New York. E di certo insomma si mossero formazioni che continuarono poi per molti versi insomma quelle forme di sperimentazione e anche di più, portarono anche le estreme conseguenze, sia un vivere in comune, una situazione voluta già appunto intorno alla fine degli anni 60, sia un linguaggio musicale correlato appunto a questa, e gli Iowa sicuramente rappresentano una delle figure eccezionali, forse più sorprendentemente insomma folle dentro il panorama musicale, e in effetti poi di follie ne attraverseremo varie, sia direzionate sia veramente in libertà, come in questo caso con gli Iowa, che si va veramente su una free form, a volte anche con quel senso assurdista che non porta male, anzi porta decisamente bene appunto a questa storica sì, minore formazione appunto parapsichedelica, para art rock. Thank you. Beh, vi avevo, come dire, un po' avvertiti anche dell'assurdo che entra dentro le musicalità di Ya Yo Wa, così magari detta anche un po' meglio, si capisce anche a che cosa mi sto riferendo, a questa comune post-hippie o iper-hippie, perché no, potremmo anche considerarla tale, visto che per tanti versi portarono appunto le estreme conseguenze, quel vivere, come dicevo prima, in comunità, forme insomma decisamente interessanti, soprattutto in termini di linguaggio artistico. Questo Penetration and Aquarian Symphony, una sinfonia sì, però legata sicuramente a un suono quasi astrale, a volte anche cercando forse veramente quella new age che non è poi diventata quella cosa degli anni 80, insomma, adatta alla Yakuza o insomma al villaggio vacanza, insomma, pronto benessere, ma un'utopia anche appunto legata a una nuova era, chiaramente sociale, ma anche proprio antropologica, che personaggi come Children of Six Root Race o Father Yod, che poi è il personaggio forse più di spicco, se vogliamo chiamare insomma tale Father Yod, insomma, personaggio più che altro insomma ai limiti e liminari insomma della controcultura americana, stiamo parlando insomma del 1974, quindi ci rendiamo ben conto che insomma gli anni dell'ippismo e quella generazione psichedelica erano piuttosto passati, anche con strascici piuttosto insomma feroci, pensiamo insomma a Charles Manson, ma pensiamo insomma anche a tutto il riflusso appunto legato a quella California che poi porterà verso veramente la New Age, quindi questo annacquamento totale di quello che fu insomma un grande periodo anche appunto di controcultura, ma addirittura anche rivoluzionario per molti aspetti. E dicevo prima Ya Yo Wa, vagamente famosi perché Sky Saxon della Cereberry, ma band per chi ama la psichedelia, e qua si va ecco già su un culto ben più acceso, ovvero quello di chi creò le psichedelie texane e californiane di quegli anni. Appunto Sky Saxon fu uno dei grandi protagonisti, e per un periodo appunto prima di passare poi veramente a un periodo anche non soltanto di riflusso ma anche proprio di perdita anche di lucidità vera e propria, tanto sono stati i ricoveri legati a Sky Saxon, anche se poi tornerà negli anni 80 con dischi anche non bruttissimi, con una generazione neopsichedelica che si rifaceva a lui. Ad esempio si possono ricordare Rain Parade, della generazione insomma The Dream Syndicate, quegli anni 80 che riprendevano i fasti delle psichedelie anni 60, però appunto proprio per questo nel 74 era molto lontana quella cultura, decisamente anche alle spalle, e invece imperterriti e con anche un gesto piuttosto sottolineato, piuttosto anche forte, si potrebbe dire anche violento, se poi in effetti la non violenza, anche se poi chiaramente stiamo parlando di violenza linguistica, anche se appunto la non violenza era sicuramente uno dei credi di Ya Yo Wa, portarono insomma alle estreme conseguenze quel viaggio psichedelico e quelle sperimentazioni anche su sonorità dissonanti che tanto insomma fecero di grandi quelle musiche, anche con quel senso improvvisativo, forse potremmo dire anche spontaneista, di Ya Yo Wa, rispetto invece agli europei, che già infatti si può parlare di scuola improvvisativa radicale, e attraverseremo anche questa sera qualcosa di più o meno simile o comunque vicino a quella cultura, controcultura anzi musicale. E con Ya Yo Wa quindi si va a trovare quell'America indefessa per tanti aspetti, aspetti e forse ancora più furente nelle ricerche, insomma, di una via d'uscita a quello che era la Way of Life of America tanto contestata. E da Iowa, passando, ho detto un po' che avremmo fatto non un giro del mondo, ma un giro soprattutto tra America, iniziale di Iowa, e soprattutto Europa, che all'epoca aveva soprattutto come punto di riferimento la Gran Bretagna, Prague. Dopo, insomma, ma forse non c'è neanche bisogno, insomma, di dilungarci su quelli che furono gli anni del mainstream Prague, quindi con gruppi come Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, che insomma imperversavano nelle classifiche, e musiche, insomma, per veramente per tanti versi sul serio irrecuperabili, se non che recuperate poi con un fil rouge da anni e anni, perché insomma di fatto un circuito revival si è subito sviluppato addirittura già negli anni 80, se pensiamo insomma a formazioni che immediatamente hanno ripreso il verbo prog e tuttora insomma sono piuttosto in auge, proprio festival che non hanno mai smesso, insomma, con Glastonbury di portare avanti, insomma, anche quella generazione, insomma, che ebbe piuttosto successo, se non addirittura quelli proprio che scavalcarono a pie pari il fenomeno e andarono proprio nel pop, anche quello più commerciale. Questo appunto ci interessa molto relativamente, se non in una chiave di antitesi magari rispetto appunto a queste formazioni, a queste progettualità che stiamo mettendo questa sera, e sicuramente insomma un'Europa differente, forse prog per tanti aspetti, però per tanti anche antagonista rispetto appunto a un mainstream romantico dei gruppi appunto che vi citavo prima, si svilupperà e porterà anche a conseguenze decisamente importanti. E dopo insomma sfioreremo la Recommended, quindi parleremo anche di quella Mitteleuropa e di quel prog che si nutriva di tanta musica colta e non soltanto quella così scimmiottare la classica che tanti fecero all'epoca. Comunque, bando alle ciance, qua veramente potrei andare avanti con un discorso che tra l'altro è ancora caldo per molti aspetti, questi anni 70, e poi hanno un rimando anche piuttosto importante già a partire da molto post rock, quando appunto si recuperarono momenti del kraut rock e anche momenti fricadelici, e come potremmo insomma definire quelli di Iowa e anche quella di Anima, in questo caso Anima Sound, collettivo sperimentale anch'esso. Fatemi passare il termine comunardo, seppure sono i comunali sono tutt'altra faccenda, però insomma avevano sicuramente anche quel che di giacobino gli Anima, se non fossero stati insomma anche decisamente come gli Iowa non violenti e vicini insomma a una cultura freak dedita insomma a una pace comunque mai vissuta in termini di autoconsolazione, anzi anche di lotta politica e di un attraversamento esistenziale insomma che li portava anche in un altrove decisamente interessante. Andiamo appunto a trovare questo altrove di Anima Sound dal loro primo disco omonimo. Mm-hmm. Thank you. Si può veramente trovare di tutto dentro di tutto quello che era la sperimentazione di quegli anni, chiaramente in anima. Prima ho detto Anima Sound, poi in realtà con questo primo disco stampato per la Pilz nel 1972 si facevano chiamare soltanto Anima, poi diventerà Anima Sound, questo collettivo straordinario, dove sicuramente avrete sentito insomma il lato freak, che insomma era piuttosto preponderante con Yayoi, seppur su quel lato sperimentale che interessa soprattutto 451 frammenti sonori, questa sera dedicata a questi 70 irrecuperabili. Vedremo un po', per noi poi in realtà sono già recuperati, di fatto insomma è un paradosso, perché poi appunto tante volte mandiamo musicalità di questo tipo, e questa sera in particolar modo insomma ci addentriamo dentro forse quell'attitudine veramente prog, potremmo dire. Questo non perché esiste il vero prog e il finto prog, ci mancherebbe altro, poi d'altronde quella discussione veramente porterebbe molti là, anche con polemiche annesse e connesse, ma comunque nel senso di progressivo, quel muoversi insomma dentro anche stati d'animo appunto, però dettati poi o gestiti, incanalati dentro improvvisazioni che tali sono fino a un certo punto. Poi ci sono anche dei disegni piuttosto anche complessi dentro Anima Sound, c'è sicuramente insomma un approccio decisamente improvvisativo, se appunto con Yayoi all'inizio della trasmissione abbiamo trovato una sorta di spontaneismo, qua la cultura europea e quello che si era sviluppato appunto con le musiche improvvisative radicali, attraverso come Anima Sound, però con quel senso appunto sempre para-rock o progressivo in questo senso, che comunque non li allontana definitivamente da quel mondo rock aperto e post-psichedelico che comunque è stato già sperimentato e che comunque in Germania stava prendendo veramente il volo per fare viaggi veramente nel cosmo. Non si può parlare di cosmice musica assolutamente con Anima Sound, si può parlare appunto di una sorta di sperimentale progressivo con tanti rimandi insomma a un'improvvisazione decisamente gestita bene. Formazione di semi sconosciuta ma di culto assoluto come Nexus Quam, come dire, insieme a Anima Sound non poteva mancare questa accoppiata, tra l'altro molto vicini per certe sonorità, se non addirittura Nexus Quam proprio, ma anche magistrale anche rispetto forse al percorso di Anima e Anima Sound. Ce l'andiamo a trovare, poi dopo una seconda parte di 451 frammenti sonori diremo anche due cose su questa formazione incredibile, un disco veramente eccezionale questo Osmose, con un brandello che andiamo appunto a sentire da questa formazione, veramente che insomma, quantomeno dovete recuperare se non immediatamente nei prossimi giorni. Nel frattempo ascoltatela. Yeah.